Italia in controluce. Buona mattina da Daniele Biacchessi. Oggi è il 20 maggio, sono due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia di Italia in controluce. Torniamo a parlare di come viene gestita la cultura e l'arte nel nostro paese con la storia del piccolo crocifisso di Michelangelo. La racconta per noi Giovanni Bracco. Adesso che sei qui, ripensa a quel che è stato, rivivi il tuo passato e poi raccontami di te. Ha raccontato parecchie cose di sé questa scultura di 40 centimetri, un crocifisso in legno di pioppo del tardo 400, tranne una: chi lo ha creato. Nel 2008 lo Stato italiano, basandosi sull'attribuzione a Michelangelo, decise di acquistarlo da un antiquario torinese per 3.250.000 euro. E il 21 dicembre il ministro dei beni culturali Sandro Bondi si presenta al TG1 delle 20. Il ministero ha dei fondi per l'acquisto di opere antiche e di opere di arte contemporanea. Questo crocifisso attribuito a Michelangelo giovane, di una bellezza suprema come è stato definito, abbiamo ritenuto di doverlo acquisire al patrimonio storico-artistico italiano in modo da evitare che potesse essere acquistato da altre persone o istituzioni private, non soltanto italiane ma anche internazionali. Lo storico dell'arte Giancarlo Gentilini è il primo a fare il nome di Michelangelo. Gli chiediamo se lo Stato abbia fatto bene a comprare. Certo, diciamo, in un momento nel quale così i fondi del Ministero sono scarsi, eccetera, la valutazione di un acquisto di questo tipo evidentemente può essere soggetto a così polemiche, e questo lo capisco. Certo, una cifra, diciamo, se un ministero, come io credo, debba anche investire in acquisti, la cifra era certamente una cifra, diciamo così, molto appetibile. Ora, su questo sono state spese anche delle parole, secondo me, anche abbastanza così vacue, dicendo che costa troppo poco se è Michelangelo, costa troppo se non è Michelangelo. L'opera è stata acquistata come attribuita a Michelangelo, una qualità d'altra parte è stata riconosciuta anche da chi non è favorevole a questa attribuzione, per esempio Margaret Mesmer parla di Andrea Sansovino, che dopo Michelangelo è certamente lo scultore più importante del momento. E evidentemente il prezzo poi è dovuto anche ad una serie di circostanze che non sono, come dire, negate ad una valutazione così assoluta del bene, no? Il fatto che un bene, per esempio, non potesse essere esportabile evidentemente ne vincolava notevolmente il prezzo, ecco. Sul valore venale del crocifisso sono volate molte cifre. L'antiquario Giancarlo Gallino, dal quale lo Stato ha acquistato, è scomparso nelle scorse settimane. La vedova Mariella prova a sgombrare il campo. Il crocifisso era stato assicurato per andare in Giappone nelle mostre che ha fatto qui a Torino quando era ancora di nostra proprietà, per 16 milioni di euro, una per 18 e una per 16, ma quelli erano i valori assicurativi, insomma. I 30 milioni, i 50 milioni, i 100 milioni, ciascuno può dare le cifre che vuole, ma se le inventano. Il fatto è che molti esperti mettono in dubbio l'attribuzione a Michelangelo e i dubbi fanno breccia. La Corte dei Conti apre un'inchiesta per danno all'erario. Ma il crocifisso dov'è? Per saperne di più ci rivolgiamo al Museo del Bargello di Firenze, al quale era destinato. E qui c'è una sorpresa. La scultura non è esposta al pubblico, ma il direttore Beatrice Paolozzi Strozzi è fiduciosa. Lo sarà, credo, abbastanza prossimamente. Stanno definendo all'ufficio restauri della sovrintendenza tutti gli ultimi dettagli tecnici per l'esposizione. Ma come mai, dopo più di 2 anni dall'acquisto, il crocifisso non è ancora esposto? Ma ha fatto diverse mostre in giro per l'Italia. È tornato con qualche problemino conservativo, per cui è stato sottoposto nei laboratori nostri a tutta una serie di accertamenti, di aspetti tecnici molto puntuali. Come si diventa Michelangelo è il titolo di un libro di Claudio Giunta, fresco di stampa per l'editore Donzelli, in cui la vicenda del crocifisso diventa una metafora delle insufficienze italiane. Secondo Giunta, che insegna letteratura italiana a Trento, innanzitutto lo Stato dovrebbe spendere meglio. Ma ha fatto bene ad acquistare questa scultura? Se non è di Michelangelo, credo di no. Se è di Michelangelo, sì. Ma la questione non è esattamente questa. Io non faccio uno storico dell'arte, quindi non so dire se è di Michelangelo o non è di Michelangelo. È nella procedura dell'acquisto che le cose non funzionano, cioè nel fatto che se uno va a vedere tutta la storia dell'acquisto, capisce che praticamente nessuno ha fatto veramente il suo dovere, cioè non ci sono stati dei controlli adeguati, le cose sono state fatte male, in maniera superficiale e sciatta. Quindi la questione non è tanto se lo Stato debba comprare oppure no delle opere d'arte. A mio giudizio personale, non di un esperto, ma di un cittadino qualsiasi, io direi di no. Cioè, lo Stato deve cercare di evitare che le chiese crollino e Pompei venga abbattuta dalla pioggia, e non comprare un crocifisso di 40 centimetri in un paese che di opere d'arte del genere ne ha parecchie. Al centro della denuncia di Giunta finisce l'infantilismo nazionale, sorretto anche da una politica culturale degradata a propaganda. La cultura non è questa cosa qui, non è prendere un capolavoro, sbatterlo in un museo o in una sala di Montecitorio come è successo e dire questa è la cultura, venite a vederla, questa è l'Italia. Questa è un'idea da piazzisti della cultura che non ha nessun senso. C'è un'enorme retorica della cultura in questo paese, infatti il sottotitolo del libro è Il mercato dell'arte, la retorica, l'Italia. L'Italia è rimbambita, rimbecillita dalla retorica anche in campo culturale. Italia Controluce, seconda edizione, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24.